Nel disinteresse ufficiale sta crescendo una nuova leva di combattenti per la libertà, che occupano case e piazze e si ribellano alle nuove schiavitù del precariato e della fabbrica galera. La vera novità, in precedenza vista molto di rado, è che questa generazione trovi subito nella letteratura un momento di lotta efficace, quanto gli altri. Mercoledì 29 febbraio alla facoltà di Sociologia, dalle ore 16, incontro con Valerio Evangelisti, Sidopa, Duca, Alessandra Mitrano, Barbara Bazzarani, Marco Capocetti Bossa, Laura Cecchini, redattori e redattrici della rivista L'Astro, e Marco De Rose. Dalle ore 19, reading e presentazione delle book contenenti i racconti che hanno partecipato al contest. Marco Pilopat, l'ultimo giorno del 68, supportato da brani appositamente realizzati da Massimo Zamboni, chitarrista e compositore dei CCCP e poi di CSI. A seguire DJ set di Paul G e gli Assalti Frontali, più esposizioni di Zero Calcare e MTC. Giovedì 1 marzo alle ore 23.30, festa in città universitaria, reggae, pop e techno, letteratura e conflitto.wordpress.com.